Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata le attività della Fondazione Vittime di Reati e gli appuntamenti della Settimana della Legalità, la programmazione delle aziende sanitarie e la promozione della cultura digitale tra le ragazze. Sono soprattutto donne e bambini beneficiari degli interventi realizzati dalla Fondazione Vittime di Reati fin dalla sua istituzione in Regione. Lo ha ricordato Carlo Lucarelli, presidente della stessa Fondazione, intervenuto in Commissione Parità. Noi abbiamo visto che in alcuni casi chi ha subito, no? Chi è stato vittima di qualcosa che è successo, poi tende ad avere sfiducia. Noi invece siamo qui per raccontare qualcosa di bello, che sembra assurdo perché parliamo di reati naturalmente. Però noi parliamo di persone che beneficiano del nostro aiuto e cominciare a pensare tutti insieme che è meglio fare il bene, beh, questa cosa qui solleva di molto, secondo me, la nostra vita. Unica nel suo genere in Italia, la Fondazione sostiene le vittime di reati dolosi dai quali derivi la morte o un danno gravissimo. A queste persone viene fornito un aiuto concreto, ad esempio per pagare l'affitto, conseguire la patente di guida o sostenere i costi di una terapia psicologica. Dal 2005 al 2021 sono un migliaio le istanze raccolte, più di 800 quelle relative a donne e bambini, vittime dirette o indirette di reati di genere. E i primi mesi del 2022 non mostrano un'inversione di tendenza. Sentiamo Federico Amico, presidente della Commissione Parità. Serve per dare uno sguardo, una possibilità a coloro che vittime di violenza si trovano inermi e quindi far sentire un supporto concreto alle persone anche da parte delle istituzioni. Ha erogato circa 3 milioni e 200 mila euro alle vittime stesse. La Fondazione si sta affermando sempre di più come un punto di riferimento in supporto alle vittime tramite l'intervento anche delle amministrazioni comunali. L'Assemblea Legislativa sostiene il concorso Conoscere per Riconoscere, rivolto agli studenti universitari per incentivare la conoscenza dei fenomeni mafiosi e promuovere la cultura della legalità. La premiazione degli autori dei migliori elaborati ha avuto luogo in occasione della Settimana della Legalità. Sentiamo la Presidente dell'Assemblea Legislativa, Emma Petitti. Non dobbiamo mai voltare la testa dall'altra parte, ma anzi spronare i cittadini a denunciare e a contribuire per lasciare un segno concreto in quella che noi definiamo la costruzione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva. In questi anni abbiamo costruito progetti proprio in questa direzione. Come sottolinea il magistrato Marco Imperato, membro della commissione del concorso, nella maggior parte dei casi gli elaborati riflettono una ricerca personale con diversi tipi di approccio, non solo quello di tipo giuridico. Questo a dire che il tema mafia è sentito anche al di fuori dello stretto ambito del diritto ed è così deve essere, è importante così, anche perché per comprendere il fenomeno servono spesso competenze anche diverse, competenze in materia tecnica, in materia scientifica, ci sono stati elaborati anche di chi fa studi di psicologia. Dal 2019 al 2022 sono 214 saggi pervenuti. Una particolarità, tra le persone premiate nelle diverse edizioni, la componente femminile è decisamente in maggioranza. La Commissione Politiche per la Salute ha espresso parere positivo sul documento di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il 2022. A disposizione oltre 9 miliardi di euro, comprensivi dei fondi per la gestione dell'emergenza Covid. Si tratta di un primo provvedimento, mentre pesano sul bilancio dell'anno in corso ancora molte incognite come quelle dovute all'andamento della pandemia e alla puntuale quantificazione delle risorse statali. È previsto un ulteriore atto di programmazione per le aziende sanitarie, a seguito dell'intesa Stato-Regioni che ci sarà sul riparto dei fondi. Ascoltiamo Francesca Maletti del Partito Democratico. È l'inizio di un percorso che con i finanziamenti nazionali, appunto per il raggiungimento del benessere e della salute dei cittadini emiliano-romagnoli, definiti dai LEA, livelli essenziali di assistenza, mancherà tutto un insieme di scelte fatte dalla Regione Emilia-Romagna. Voto favorevole anche da Silvia Zamboni di Europa Verde. Questo documento pone anche in campo una nuova organizzazione molto importante per dare risposte nuove alla sanità pubblica con risposte di territorio. Bisogna che il governo si faccia carico delle spese straordinarie che hanno dovuto affrontare le regioni per rispondere all'emergenza Covid. Un rimprovero al governo di non aver previsto di finanziare con il PNRR un piano di disinquinamento del bacino padano. Intanto la Giunta ha presentato presentato i conti del 2021. Il bilancio della sanità si avvia al pareggio, nonostante i costi dell'emergenza dovuta al Covid. Mentre per il 2022 si prevedono ulteriori spese legate alla gestione della pandemia, per 612 milioni di euro. Per l'opposizione non convincono i numeri riportati in commissione dall'assessore Raffaele Donini e permangono dubbi che fanno scattare il parere contrario al documento di programmazione. Sentiamo Daniele Marchetti della Lega e subito dopo Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia. Contestiamo la delibera che ci viene posta la nostra attenzione, che chiede in sostanza alla direzione delle aziende sanitarie di contenere i costi per l'annualità in corso, senza specificare in quali aspetti bisognerà intervenire. Per noi questo significa votare una cambiale in bianco e quindi chiediamo per il futuro perlomeno un maggior coinvolgimento della Commissione Sanità per verificare costi e servizi che dobbiamo garantire alla nostra cittadinanza. Vogliamo capire se è in atto una riorganizzazione volta a creare ulteriori poltrone per sistemare magari alcuni aspetti politici invece di andare incontro ai cittadini, o se invece si vuole fare una riforma differente per l'assessorato. Per incentivare le competenze digitali e superare gli stereotipi di genere, la Regione promuove il progetto Ragazze Digitali ER. L'iniziativa, rivolta alle studentesse del terzo e quarto anno delle scuole superiori, è stata presentata dall'assessora alla scuola Paola Salomoni nella seduta congiunta delle commissioni Cultura e Parità. Grazie alla collaborazione con gli Atenei della Regione, le studentesse potranno avvicinarsi al mondo dell'informatica e della programmazione, frequentando dei summer camp già da quest'estate. Sentiamo Roberta Mori del Partito Democratico e subito dopo Giulia Pigoni della lista Bonaccini. Il fatto che si cominci a fare formazione digitale, scientifica, orientamento e anche un summer camp digitale nelle università per le ragazze delle superiori credo che sia un elemento di grande concretezza per superare appunto questa segregazione professionale che purtroppo può diventare impoverimento, diciamo, in età adulta. Cerchiamo di raccontare alle ragazze che non hanno una sola opzione, hanno tutte le opzioni possibili e tutti i settori in cui potersi impegnare. Secondo Valentina Castaldini di Forza Italia va bene far emergere i propri talenti, ma l'obiettivo più urgente da raggiungere è quello della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sentiamola. Io credo che la politica debba lavorare esattamente su questo livello, cioè fare in modo che le aspettative di ogni individuo vengano realizzate sul serio davvero e offrire tutti gli strumenti possibili perché questo accada. La Commissione Politiche Economiche ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione bipartisan che chiede al governo di mettere mano ad alcune modifiche alle nuove norme varate in materia di concessioni balneari. Sentiamo di cosa si tratta da Massimo Bulbi del Partito Democratico e Massimiliano Pompignoli della Lega. Tenere nella giusta considerazione le preoccupazioni dei nostri imprenditori. Hanno fatto degli investimenti, c'è un valore aziendale, questi dovranno partecipare a delle gare, è giusto riconoscere questo valore aziendale, il livello occupazionale, ma anche dare la possibilità alle regioni di poter mettere degli ulteriori criteri che danno la possibilità di avere ulteriori punteggi. Nel caso in cui il concessionario dello stabilimento non riesca a vincere il bando, dovrà riconsegnare lo stabilimento privo di quegli investimenti che eventualmente aveva fatto negli anni precedenti. Questo non va bene perché è evidente che sia comunque uno svantaggio per chi ha investito nel corso di questi anni e speriamo che insomma questi emendamenti vengano accolti dal governo. E sempre in Commissione Politiche Economiche, Emiliano Occhi della Lega ha presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta di esprimersi sul progetto di cattura e stoccaggio di CO2 al largo della costa Ravennate. Abbiamo chiesto all'assessore Colla e in generale alla Giunta di dare un giudizio definitivo su quello che ritengono possa essere il futuro di questo progetto. La loro risposta non ci ha soddisfatto perché è ancora una risposta che deve tenere insieme gli equilibri della Giunta di questa regione. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere informati sulle attività dell'Assemblea Legislativa seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.mr.it e cronacabianca.eu. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.